Sei di mattina la mia sveglia assassina, un po' di ovo maltina mi ricordano di correre. Al lavoro che bello, quasi salto il tornello, ho già acceso il cervello e ora tocca al computer. Alle 11 in punto c'ho uno stimolo dentro, non resisto più tanto, faccio un salto all'attuale. E poi via fino a pranzo, una fettina di manzo, il contorno lo avanzo, mi concedo mezzo caffè. Corro a casa di Lena prima che faccia buio. Prima di cena è normale un po' di vita sociale nello stesso locale dove sono cresciuto. Così non rischio nemmeno il pericolo insano di incontrare qualcuno che non sia conosciuto. Fatta riciclata, macchinista sopra un tram. Per un istante fu l'amore, ma una rotella si inceppò. Yeah.